Columbus che cos'è e perché è importante? Sì, è decisamente un vero e proprio caposaldo della storia esplorativa europea. Columbus, in una battuta, è il primo laboratorio spaziale europeo che sarà posto quindi in condizioni di microgravità. Per tradurlo nella forma forse più chiara possibile, per la prima volta l'Europa avrà il suo appartamento nello spazio, potrà farci ciò che vuole, questo è importante, non è affatto scontato, e naturalmente è un appartamento un po' particolare. Si comincia nel tuo programma anche a parlare di domotica, di tecnologia. Beh, qui siamo di fronte a un appartamento, a un modulo ovviamente all'interno del quale si farà ricerca scientifica europea in gravità quasi zero, quindi in microgravità. Perché ricordiamo che la Stazione Spaziale Internazionale è un condominio e quindi ci sono vari appartamenti. È un condominio di cui tradizionalmente le chiavi sono divise tra gli Stati Uniti e i russi. Vi sono proprio due parti fisiche, tra l'altro io consiglio all'ascoltatore di andare a vedere le formidabili fotografie che vengono messe anche a disposizione dei siti dell'ESA, in cui si vede che proprio cambia l'arredamento. Il modulo russo ha questo suo look russo, il modulo americano le sue caratteristiche. Bene, ora arriva l'Europa, peraltro seguita a brevissimo, si spera, giro di razzo dal laboratorio giapponese Kibu, che è il lancio successivo. Ma insomma, per l'Europa è veramente un passaggio significativo. Tu hai citato il razzo, è molto importante. Oggi utilizziamo per arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale prevalentemente, ma non solo, ma come mezzo di trasporto prevalente, lo Space Shuttle. Per il futuro ci sono vari progetti. Quello dei lanciatori è, non so se un problema, comunque insomma è un capitolo delicato di tutta questa complessa vicenda. Assolutamente, visto che oggi andiamo un po' per metafora, abbiamo detto che le chiavi di casa ce le ha chi può raggiungere l'abitazione, perché comunque fino ad ora lo shuttle, poi negli anni del blocco la Soyuz, dunque sono solo due i mezzi che portano attualmente non solo i moduli, ma le persone, gli astronauti, il cibo, le risorse, gli interventi a questa formidabile struttura che è la stazione spaziale, che nel frattempo è grande praticamente come un campo da calcio. Forse vale la pena ricordarlo. E dicevo, ma questo sta per finire. Già nelle prossime settimane, quindi va segnalato il lancio di ATV, quindi un attesissimo strumento di lancio automatizzato che, in assenza di personale a bordo, permetterà di portare spaziale, quindi di ricaricare la stazione spaziale senza avere la necessità di lanciare un equipaggio. Un grande passaggio anche questo. E questo è un sistema europeo. Esattamente, questo è un sistema europeo lungamente atteso, lungamente previsto, e come dicevo aprirà in qualche modo una terza porta. Esiste già una terza porta, anzi ce n'è anche una quarta, io mi sto riferendo ai lanci. Se la prima tradizionalmente è quella combattuta tra l'ex Unione Sovietica, quindi i russi, Baikonur e Cape Canaveral, poi se ne sono aperte delle altre. Per l'Europa è Kourou, quindi il cosmodromo europeo di Kourou. Per la Cina nel frattempo sono altri luoghi, ma rimanendo a noi c'è quindi i lanciatori europei entrano realmente in campo, lo sono già, sono molto attivi nel fronte del lancio commerciale dei satelliti, lo sono stati meno per molte ragioni in quello dell'esplorazione spaziale. Beh, la stazione spaziale rappresenta oggi la punta più avanzata dell'esplorazione spaziale.